verso il voto. Un saluto agli ascoltatori e benvenuti al punto politico della giornata. Sono ancora le schede elettorali a far discutere i due maggiori schieramenti politici. Partiamo dal Popolo della Libertà. Berlusconi punta il dito sull'esecutivo Prodi. Sono incapaci di governare, spiega il Cavaliere, che fa capire solo chi non ha buon senso può fare delle schede così. È un'altra prova dell'assoluta incapacità della sinistra a governare il paese. Perché soltanto senza buon senso si possono fare quelle schede che possono portare, ma non a vantaggio nostro, perché i primi che hanno sollevato il problema sono stati i signori del PD. Sempre sulle schede elettorali il Cavaliere torna poi sulle contestate frasi di Bossi. Ricorreremo ai fucili, aveva detto il senatore. Se la poteva risparmiare, ammette Berlusconi, che però spiega. Bossi, sapete, ha avuto quello che ha avuto, si esprime per slogan. Ma però quante volte Bossi ha detto i fucili non ci sono. Uno può imbracciare qualcosa che esiste. Per lui imbracciare i fucili significa che la Lega farà di questa cosa una battaglia politica forte. Il Cavaliere da Cagliari ricorda poi i temi più importanti del programma del Popolo della Libertà: abolizione dell'ICI sulla prima casa, meno tasse per le imprese, infrastrutture, più lotta alla criminalità. Potremo fare le riforme, avverte però Berlusconi, se avremo una larga maggioranza, da qui il richiamo al voto utile. Di un voto dato sulla scheda del Senato a queste forze minori è un voto sottratto al Popolo della Libertà, che è l'unica formazione politica che può avere successo nell'ambito del centrodestra. Sulle schede a Berlusconi risponde il ministro Amato. I militari all'estero hanno già iniziato a votare, dice il ministro dell'Interno. Ristamparle, spiega, ora sarebbe incostituzionale. Al Cavaliere ha qualcosa da dire anche Bossi, soprattutto sulle sue condizioni di salute, così al TG3. Le condizioni di salute sono ottime, sto benissimo per fortuna, però non è un problema. Quando ho fatto la Lega, in tutti questi anni non ho fatto qualcosa perché io diventassi ministro. Nella Lega fortunatamente ho creato un nucleo di persone capaci di amministrare e governare, di fare i ministri, eventualmente al mio posto. Andiamo ora al Partito Democratico. Veltroni rinnova le critiche a Bossi e torna sulle schede elettorali, ce ne parla Elisabetta Fiorito. Walter Veltroni attacca le ambiguità di Silvio Berlusconi su Umberto Bossi. Il segretario del PD critica i commenti del Cavaliere sull'alleato di governo. Dopo che ha detto la cosa ai fucili dice: ma è malato, che è l'argomentazione peggiore che si possa usare. Peggiore, anche umanamente peggiore. Riguardo alle schede elettorali e alle proteste di Bossi, Veltroni contesta poi il silenzio di Gianfranco Fini. Quelle schede sono il prodotto della legge elettorale fatta dal suo collega di partito, ministro Calderoli. Ma la cosa peggiore è il silenzio dei suoi colleghi di coalizione, i quali se la fanno sotto. E fatemi dire, mi dispiace ancora di più, non una parola dal presidente di Alleanza Nazionale, il quale dovrebbe per decoro reagire. Veltroni poi protesta perché le apparizioni in TV a fine campagna elettorale avvantaggiano Silvio Berlusconi. Il segretario del PD contesta di essere a porta mercoledì, mentre il leader del Popolo della Libertà ci sarà giovedì. Ma per Veltroni è uno scandalo che il Cavaliere abbia già annunciato di avere una posizione con maggior share a Matrix. La trasmissione di Mentana precisa che tutto verrà stabilito da un sorteggio. Infine una stoccata sulla posizione di Berlusconi riguardo alla mafia. In Sicilia il principale esponente dello schieramento a noi avverso ha detto: useremo i vostri voti contro la mafia. E no, non è la stessa cosa. Bisogna non farsi dare certi voti. Il tema delle schede elettorali da rifare o meno è al centro dei commenti anche delle cosiddette forze minori. Qui c'è una richiesta che viola la Costituzione, dice il candidato leader della sinistra, l'arcobaleno Bertinotti, per il quale ci vorrebbe un'indignazione da parte di tutti gli altri partiti. Bertinotti guarda poi così al rapporto con Veltroni. La sinistra arcobaleno, di fronte a questa realtà, ha fatto una scelta di proporsi come la costruzione di una nuova grande sinistra italiana e la costruirà dall'opposizione. La polemica è ridicola perché gli italiani sanno come votare, commenta sulle schede elettorali il socialista Boselli. Di spettacolo indecente parla il leader dell'Unione di Centro Casini, per il quale un'eventuale ristampa delle schede sarebbe fatta solo per favorire i due partiti maggiori. È indecente quello che sta capitando. Si vuole obbligare il ministro Amato a violare la legge, a fare un decreto che crei una condizione di favore per i due partiti maggiori e per le alleanze coalizzate. Chiudiamo con la Democrazia Cristiana. Il segretario Giuseppe Pizza ha annunciato sempre a Radio 24 che ritirerà la propria lista dalla competizione elettorale. Io mi sono impegnato a non contestare in ogni caso il risultato di queste elezioni. Ovviamente mi sono riservato il diritto di difendere in tutte le sedi il nome e il simbolo della Democrazia Cristiana. Verso il voto termina qui in studio Vincenzo Miglietta.